caso di un testo narrativo classico, cioè di fiction, un'immagine non sarà mai prevalente rispetto al testo, perché è una questione di intenzione. Nel momento in cui tu racconti una storia che programmaticamente, intenzionalmente ha un valore paradigmatico, vuol dire che è in quel momento, per raccontare quella storia, è al lavoro un processo di astrazione o di pervivificazione di secondo ordine. Non cambia che sia un romanzo di Balzac o che sia l'Odissea. Cioè, voglio dire, nell'Odissea o nell'Iliade è chiaro, i personaggi dell'Iliade e dell'Odissea sono personaggi eccezionali, giusto? Non sono esseri umani normali, sono eroi, o ci sono addirittura gli dèi, no? Quindi se tu racconti la storia di Achille o la storia di Ulisse, automaticamente, e quindi il testo, cioè quindi la parola parlata o successivamente scritta, trascritta, che è uno strumento per eccellenza di selezione, cioè che prende qualcosa e la solleva, la mette in primo piano rispetto ad uno sfondo, cioè, funziona meglio che non l'immagine. L'immagine è qualche cosa che, per quanto all'inizio possa avere qualche elemento di simbolicità, eccetera, ma rimanda ad una a qualcosa che l'essere umano considera esperienza quotidiana. Tanto più l'immagine è tecnicamente riproducibile, cioè la fotografia. Quindi nel caso di un testo, di una produzione scritta, orale o scritta, comunque che coinvolge il linguaggio parlato, la lingua, diciamo naturale, in cui si raccontano delle storie esemplari in qualche modo. Allora, da questo punto di vista, Papa Goriot di Balzac, Leopold Bloom di Joyce, o Ulisse o Achille sono esemplari nello stesso modo, in modi diversi, ma sono tutti esemplari. Se no Balzac non sarebbe andato a Papa Goriot, perché cazzo ti conta di Papa Goriot e non di un altro tipo? Perché Joyce sceglie uno che si chiama Leopold Bloom e fa quel personaggio? Vuol dire che nella sua testa lo considera più importante cioè è una creazione della sua mente, quindi per quanto Joyce si sforzi di far vedere che Bloom è un cittadino qualunque, che Dublino è una città qualunque, in un giorno qualunque, del 20 giugno del 1904, tu quando leggi Ulisse automaticamente sei provato a dire, beh, questo è importante, cioè questo è, dice, rilevante, mi sta spiegando qualche cosa che è più importante di altri. In quel caso un'immagine non sarà mai, non avrà mai la stessa rilevanza della parola, perché è soltanto la parola che può elevare, che può staccare dallo sfondo qualche cosa e che può farla diventare importante, pertinente, rilevante. Diverso è se però lo strumento che tu hai in mano non è qualcosa che ti dice, ti do il senso della vita. Un quotidiano non ti dà il senso della vita, ti dice quello che è successo ieri. Ieri il governo Prodi è andato sotto alla Camera, ieri qualcuno ha sgozzato la ragazza americana a Perugia, due giorni fa un ciclone ha investito il Bangladesh. Sono tutte cose che sono rilevanti oggettivamente, non perché qualcuno di noi le consideri rilevanti, dovrebbero essere rilevanti oggettivamente. Quindi è la cronaca. È la cronaca, cioè la quotidianità banale, banalissima, quello che è successo davvero, in contrapposizione a quello che potrebbe succedere se, o quello che è un modello di quello che succede. La letteratura di qualsiasi genere sia, lirica, epica, narrativa, di qualsiasi tipo, è qualche cosa che che potrebbe succedere se ha sempre a che fare con l'impossibile, no? Quando si dice che è un libro che vedrà un film. Sì. In realtà il film è tanto fiction quanto il libro, ma il fatto che il film si basa sull'immagine te lo fa considerare, ti prova a fare. Se tu ti leggi Via col vento della Mitchell ti annoia, no, va bene. Ma se, come dire, non ti verrebbe mai in mente che Rossella O'Hara sia davvero una persona reale quando leggi. Se lo vedi al cinema, dopo un po' la tipa, come cazzo si chiama, non mi ricordo, Vivien Lee, cioè, tu pensi che sia vera, perché è una faccia che si muove, è un'immagine che si muove di sopra. L'immagine è più predisposta per funzionare come immagine della quotidianità, come replica della quotidianità, addirittura come sostituto a volte della quotidianità. Allora, è per questo che l'immagine nel giornale diventa, dapprima nel, diciamo, giornale, poi al cinema con queste variazioni e più ancora in televisione diventa così importante. Perché in realtà, volendo, ci sarebbe un'altra cosa, ma ci volevo arrivare con più calma. Però, visto che me lo chiedi, l'anticipo già ora. L'immagine è uno strumento culturale, uno strumento concettuale, basato sulla continuità. È uno strumento continuo. Io prendo uno strumento, prendo qualcosa in mano, lo intingo nel colore, faccio una linea, la mia mano si muove con continuità da un punto all'altro. Se devo andare a stabilire quali sono i pezzettini di una linea tracciata con il pennello, devo fare un'operazione ulteriore di astrazione, devo dividere, ma la linea in quanto tale è continua, no? Il linguaggio è discreto. Il linguaggio sono dei pezzi, sono delle robe isolate, sono dei fonemi, sono dei suoni, e sono 25, 30, quelli che siano. Il linguaggio è la costruzione, il linguaggio non è continuo. Sì, cioè il mio flusso verbale è, diciamo, continuo, ma la parola è discreta, è fatta, ci sono tante parole. Le parole sono costruite di fonemi, di suoni che sono stati eletti perché sono più o meno facilmente distinguibili l'uno, diciamo, dall'altro, ma sono una quantità finita, sono distinguibili l'uno dall'altro. Quindi il processo del linguaggio è un processo basato su un fenomeno discreto. L'immagine è basata praticamente su un fenomeno e su una tecnica continua. Sì. Vabbè, mi mette la descrizione che fa su Zack Mania quando descrive Sera. Il impressionismo e inizia a descrivere il divisionismo, il quantiglismo. Sì. Proprio il quadro della ma perché perché diciamo, l'impressionismo, il quantiglismo sono dei fenomeni così strani per la storia della pittura? Perché rompono con questa tradizione del gesto continuo, eccetera. E ma come possono essere, come mai non c'è stato un quantilismo ai tempi di Caravaggio o ai tempi di Giotto, eccetera? Come mai? Perché non c'era l'esperienza, perché, come dire, la discretizzazione del reale, anche se fondamentalmente è un fatto che tutte le culture hanno comunque praticato, perché ripeto, il linguaggio è un processo discreto e non, diciamo, continuo. Ma l'immagine in quanto tale è sempre stata, e nonostante tutto il divisionismo, eccetera, in qualche maniera rimane un qualche cosa di, diciamo, continuo. Anche Mondrian, che pure è uno che ha introdotto il discreto nella pittura, perché fa dei campi di colore facilmente delimitabili e distinguibili l'uno dall'altro, con delle belle linee nere in mezzo, no? Però anche quella linea nera è un fenomeno continuo. Dentro la linea nera di Mondrian, non posso dire questo punto è più importante di un altro, a meno che non ci sia l'intersezione di due, diciamo, quadrati. Cioè, come dire, la tradizione della continuità, del continuismo in pittura o nell'immagine, cambia molto le cose. Adesso con il computer noi sappiamo che tutto è discreto invece, perché c'è il pixel, perché c'è lo 0-1 di fondo, perché sono due elementi che si combinano in vario modo e danno vita a questa cosa. Però quando come dire, Photoshop, quando qualunque programma per creare le immagini mi vuole dire beh, questa è un'immagine buona, realistica, eccetera, mi deve dare l'illusione della continuità, attraverso il discreto simula il continuo. E dall'altro punto di vista, se uno guarda un quadro puntilista, una riflessione a distanza, effettivamente vede una cosa. Vede continua. Una forma, certo, vede una forma. Sì. Allora, diciamo, è il cervello che comunque ricorda. Certo che è il cervello, certo. Ma allora, da un certo punto di vista, l'illusione della continuità c'è anche nel linguaggio, perché noi, quando io parlo, non vi sto dicendo adesso io ho discretizzato il mio linguaggio, se dico l'immagine, oh che bello, l'immagine, in realtà l'immagine è formato da l, i, m, m, a, z, i, m, e, ok? È la stessa cosa, però c'è un casino. Quindi, come dire, da sempre l'uomo è abituato a simulare, però da un certo punto di vista ci sono strumenti che sono di per sé discreti, il linguaggio, e strumenti che sono di per sé continui, l'immagine. Poi dopo che dopo qualcuno abbia discretizzato anche l'immagine, non cioè, rispetto al discorso che faceva prima della parola e dei sensi, che sono già un'astrazione, poi sì, il linguaggio diventa sì, un'ulteriore sì, astrazione. Sì. L'immagine è compresa nel, diciamo, è allo stesso livello del sensoriale, nella no, nostra interpretazione. No, certo che no, e certo poi che c'è no. Una successiva interpretazione. È già un intervento di secondo grado. Però a differenza del linguaggio l'immagine rimanda direttamente ad uno più oggetto. Più direttamente. E fra l'altro, a differenza di quanto possa pensare il senso comune, l'immagine, diciamo, l'immagine mimetica non è originaria e l'immagine astratta derivata, come potrebbe sembrare. Allora, cioè prima c'è la scopo e poi c'è lo stile geometrico arcaico greco, per dire, no? Non è così. Molto probabilmente, anche da un punto di vista cognitivo, il figurativo, cioè la riproduzione tramite l'immagine di una realtà, è già l'approdo di un lungo processo in cui probabilmente una prima fase è totalmente astratta, in cui tracciare un'immagine non vuol dire tracciare un'immagine che imiti la realtà. Discreto comunque, però adesso diciamo in qualche anche maniera quando, però diciamo, gli studi sul disegno infantile il bambino parte da dei simboli astratti, certo, quando sono certo, cerchio, il quadrato, per poi comporli tra di loro e poi successivamente arrivi alla però nel momento in cui, ed è una conquista culturale storica, gli esseri umani si rendono conto che con questo sistema, con questa tecnica creare modificazioni cromatiche e grafiche su una propria superficie, si può fare qualcosa che richiama immediatamente la realtà. Ma e non è tanto culturale però, perché la nostra prospettiva oggi certo è culturale, ma è ovvio realtà. è culturale, che cosa ho detto? È culturale. Cioè, è già culturale anche la fase astratta, però tanto più è culturale. Quindi non è una, cioè in genere si pensa che la riproduzione della realtà sia un dato primigenio, dice, si comincia così, poi dopo, no, non è affatto vero. Si comincia con l'astrazione in qualche modo, o comunque con un sistema grafico, ma perché? Perché, sì, perché il nostro principale strumento, il nostro originario strumento di simbolizzazione, di rappresentazione e di azione sulla realtà, al di là dell'azione fisica del corpo, della mano che fa delle rose, che schizza delle pietre, che costruisce delle cose, ma quello più specificamente culturale, che è il linguaggio, è uno strumento terribilmente, diciamo, astratto e non analogico, da un punto di vista, non c'è nessuna analogia tra il linguaggio e la realtà. No? La parola cane, non c'è nessuna ragione mimetica perché la parola cane voglia corrisponda a quel certo animale fatto in quel modo. Tant'è vero che in altre lingue quello stesso animale si chiama dog, in altre si chiama shen, in altre si chiama hunt, chissà cane in cinese lo dica, così lo diciamo anche in cinese, insomma. Cioè, in 10.000 modi diversi, il linguaggio è qualcosa di totalmente simbolico, è discreto perché è basato su una quantità limitata di simboli, di segni diversi l'uno diciamo, dall'altro che combinati insieme danno delle cose dotate di senso e totalmente arbitrario. Il linguaggio è arbitrario, l'immagine no, l'immagine è meno arbitraria del diciamo, linguaggio, anche l'immagine astratta e non è discreta ma è continua. Non è arbitraria, è meno arbitraria del linguaggio. Perché? Perché in qualche maniera i vincoli dovuti alla tecnica, dovuti al materiale che uso e alle limitazioni della superficie su cui faccio i segni, per esempio la parete di una caverna, più o meno liscia la parete della caverna, mi vincolano molto di più che non l'emissione di suoni. Io nell'emissione di suoni sono vincolato soltanto dalla gamma di suoni diversi e pertinentizzabili che riesco a fare con il nostro apparato vocale. Una volta superato quello, non c'è limite alla fantasia linguistica. Ma se fosse così, le produzioni geografiche di diversi popoli dovrebbero essere tutte uguali, invece come sono? Cioè, tipo, le insegne dei Maya dovrebbero essere uguali a quelle degli No. Egizi. Certo che c'è certo che c'è un range possibile di variazioni, come no, ma meno forte di quello del suono. Meno forte di quello del suono. E poi comunque è vero che, ma insomma, c'è una certa uniformità nelle forme base che si usano per costruire le immagini grafiche, insomma, c'è una certa uniformità. Se sono cerchi o Vabbè, sono come quadrati dire, anche o sono robe con gli spigoli o sono robe senza spigoli, poi c'è una grande possibilità di combinarle, è come dire, certo. le vocali quelle sono e poi ognuno le combina a modo proprio. Capito tesoro, ma con 7-8 suoni vocalici e una ventina o quindicina di suoni consonantici, vedi tu che cosa siamo stati in grado di fare. Vai a sentire parlare un lapone o un. Cioè, non, cioè la diversità, certo che quella è la materialità. Comunque adesso non sto facendo una filosofia generale, stavo cercando di stabilire quali possono essere delle possibili ragioni per le quali, come dire, l'immagine, da un certo punto di vista la parola sembra più adatta alla creazione di paradigmi che non l'immagine. La parola sembra più adatta alla creazione di paradigmi che non l'immagine perché è un sistema discreto e non continuo, perché è un sistema arbitrario e non in senso lato analogico. L'esempio delle immagini usate nei giornali adesso, oppure nei giornali in televisione, la maggior parte delle volte non sono immagini che si riferiscono al fatto, sono immagini di repertorio quando si vendono le immagini dei Bravissimo. giornali. Quindi, oppure comunque anche sui giornali che ne vediamo, se si parla di Prodi che fa questa cosa, c'è la Non è fotografia di vero, non ho proprio Prodi di e non farlo. è raccontato, quindi racconta niente, ad esempio. Certamente. questo. narra le immagini che ci sono sui giornali, Ma almeno. non sono narrative nella modalità di costruzione, ma nella modalità di ricezione sì, perché no, noi siamo stati ormai talmente. Questo spiega, come dire, si riferisce soltanto al fatto che noi ormai siamo talmente abituati a vedere immagini al telegiornale, che come dire, ci accontentiamo anche delle immagini di repertorio, perché la nostra mente fa un collegamento, dice, ah vabbè, sarà così, quella guerra sarà simile. Poi, Sì, ma si allora. sente la voce, senti la notizia, senti la voce, non vedo l'immagine. Di solito. Prova a fare, è molto semplice, prova a sentire un giornale radio e a guardare un No, ma la telegiornale. maggior parte delle volte capita così, tipo la casalinga guarda il telegiornale senza guardare la televisione, sente solo le voci Va e bene, cucina intanto d'accordo, mentre guarda la Cristina, televisione, quindi lo sente. va bene. Il marito invece sta seduto sul divano e guarda anche le Vabbè, immagini nello della televisione. stereotipo, diciamo, ecco, sì, comunque c'è, cioè, la maggior parte delle Ok, volte. scusate, tu che stai qui, no? Quindi ti stavo solo seguendo nel campo dello stereotipo. Cioè, non mi sembra che sia così rilevante l'immagine, anzi, molto spesso non ha proprio nessuna Ma rilevanza. storicamente è stata rilevante, che poi oggi nel modello di ricezione, come dire, tu abbia talmente introiettato questa presenza dell'immagine che puoi anche farne a meno, va bene, che la famosa casalinga, che sia di Voghera o di altri paesi, sia ormai in grado di. Ma perché? Perché può soltanto sentire l'audio? E perché oggi tu ascolti la radio e ti sorgono delle immagini? Perché sei abituato alla televisione. Dopo l'era della televisione siamo tutti abituati ad associare delle immagini con dei suoni, per cui la casalinga può anche non guardare lo schermo ma sentire solo l'audio, ma perché nel suo training, nel nostro training, ognuno cioè chi è nato, io no, per esempio voi, anche qui un po' di voi, che sono nati con la televisione in casa, siete abituati così, perché di fatto è questo. Dopodiché una volta che hai fatto il tuo apprendistato, e sei abituata al fatto che quella certa scatola ti fornisce suoni e immagini associate. È vero, le immagini spesso sono di repertorio, eccetera, ma tu sai che quelle sono le immagini degli eventi, delle, diciamo, novità. E l'osservazione che facevi tu prima è, come dire, vera, ma dimostra soltanto il fatto che ormai ce la beviamo talmente tanto che ci pare che le immagini di repertorio siano i fatti. Certo che sono immagini spesso soltanto di repertorio, ma sono i fatti. La guerra, poi ci sono all'interno di questa cosa degli eventi che ovviamente cambiano. Allora, prima guerra del Golfo, eravate già nati tutti, penso, sì, forse non l'ho detto, ma Sì, eravate direi. 8 anni, 10, 5, non ricordo, 8 Certo, anni, ok. importante. Prima guerra del Golfo. No, quant'è? Del Tu sei un 1991, po'. del 90, Vabbè, allora io non ho tu. molto. No, Di più. sì, avevamo un po' di più. Tu perché insomma non sei così giovane sia. Comunque sia, allora, se vi ricordate, la guerra del Golfo fu una guerra in cui per la prima volta mancarono le immagini. Non ci furono immagini della Golfo. Le immagini della guerra del Golfo sono quella, diciamo quella più. Come si chiama? L'epitome, dimmi. Quella proprio in diretta. O in infrarosso, o in infrarosso, no, è quando Peter Hagler, che sta per caso sul tetto, sta per caso, no, va sul tetto dell'albergo di Baghdad e registra le traiettorie che vengono perdoline delle bombe, delle robe che si vede che cadono Che è su una Baghdad, notizia non verde, lontano. Ok, una notizia dopodiché verde. lì, giornalisti li hanno fatti fuori tutti, li hanno fatti fuori, non li hanno fatti neanche, diciamo, arrivare. Questo nella prima, nella seconda poi invece c'hai le immagini delle bombe intelligenti con le Sì. telecamere piazzate sopra, su cui il mio amico Motor ha fatto un'intera video installazione con queste immagini qua, c'hai con giornalisti embedded, questo non vuol dire che ne sai di più, perché non ne sai quasi quasi, non ci sono quasi le stesse immagini, però apparentemente sì. Bene, allora. La prima guerra del Golfo è una guerra senza immagini. E infatti Baudrillard ha potuto dire che si è trattato di un evento puramente virtuale, uno dei suoi articoli più famosi, che è il caso più scandalo è la guerra del Golfo n'ha pas eu lieu. La guerra del Golfo non ha avuto luogo. Non ha avuto luogo, per lui è ovviamente un paradosso, non si deve dire, ma insomma, è un articolo collegato tra l'altro con questa cosa. Ma allora questo non. Il fatto che un evento, per ragioni particolari, non risulti associato a delle immagini, diciamo, davvero, non implica che questo non metta in discussione il ruolo strategico dell'immagine. Giusto? Cioè, una volta che il ruolo dell'immagine è diventato elemento cardine del tuo processo cognitivo, delle tue opzioni culturali per guardare il mondo e per capire il mondo, in certi casi tu puoi anche farne, come dire, a meno, puoi anche registrare il fatto che invece in questo caso le immagini non le ho, ma in qualche maniera è come se le avessi, perché a questo punto, ma se no, in generale, voglio dire, dai, se catturano, come cazzo si chiama l'ultimo che l'ha catturato, Lo Piccolo, se catturano il boss della mafia, come dico, e non ti fanno vedere i tipi con il passamontagna sulla testa, cioè non l'hanno preso davvero, cioè tu non ci credi che l'abbiano preso davvero. Poi ovviamente ti possono montare delle gran palle, perché Lo Piccolo può essere un attore del cinema e altre cose, ti costruiscono una scena falsa, te la danno, tu non hai alcun modo da casa di poter decidere se quella è vera o no, però culturalmente sai che è così, ed è quella che, come dire, diventa più importante. Se tu sei abituato a guardare la televisione, adesso io per esempio, io sono un caso a parte, io non guardo più televisione da circa 10 anni, ascolto giornali radio, mi sono costruito un mio coso, per cui mi fido di alcuni giornali radio, di altri meno, quindi sento quelli di cui, come dire, mi fido, ma è chiaro che ho un certo di fiducia pure il mio, non dico di essere meglio di chi guarda la televisione, pure io ho dovuto. Come il normale lettore, questo già lo metteva a luce Voltaire, nel Settecento chiunque leggeva un libro di viaggi, mettiamo su Pechino, automaticamente doveva fidarsi di chi gli diceva che c'era Pechino, perché lui non ci poteva mica andare, non c'era un caso. Beh, gli disse una lontana città chiamata Pechino e un paese chiamato Cina. Cioè, vabbè, ok, dice, mi fiderò perché ho costruito un sistema di mediazioni culturali tra me e il mondo che comprende il fatto che ci siano alcune persone autorevoli di cui io mi fido e che mi attestano che loro l'hanno vista, no? Le cose sono sempre funzionate così. L'immagine nel idem per il giornale, il lettore newyorkese che nel 1882 legge su di un giornale, non so se c'era ancora il New York Times, credo di no, forse non c'era ancora, insomma, legge sulla Manhattan Gazette, che cazzo ne so, dell'epoca, dice catturato e ucciso il bandito Jesse James, si fiderà di quello, dice, magari c'è stato qualcuno, c'è firmato John Smith, allora dice mi fido di John Smith, mi fido di questo giornale che mi assicura che sicuramente questo Jesse James, che io non ho mai visto se non in qualche romanzetto popolare illustrato, perché le foto di Jesse James non ci sono, ma forse ce n'è uno o due, non ricordo, comunque erano anche di disegno. Io mi fido di quello che mi ha detto, c'è sempre un sistema, diciamo, di certificazione culturale. Io mi fido di quello che dicono altri, eccetera, eccetera. L'immagine cambia questa cosa, quando comincia ad essere massicciamente usata l'immagine, prima nei quotidiani, poi nei film rotocalchi, poi nelle cose, poi con la televisione, io penso, erroneamente, ma l'utilizzatore medio pensa di poter fare a meno di questa certificazione, per questo è sempre, oggi è così meno importante il giornalista, perché c'è un'immagine, dice la guerra del Golfo, guardo e vedo le immagini, dice buttano giù la statua di Saddam Hussein, l'ho visto in televisione. Il fatto che poi adesso faccio questo esempio per dire un tipico esempio di uso politico della televisione. A buttare di mare da un 6 c'erano 15 persone, 15-20. In quel caso la costruzione della, diciamo, ripresa fatta in modo da non far vedere mai tutta la piazza insieme. E un accorto uso del montaggio, per cui montata insieme a queste immagini, c'erano le foto di gente per le strade, ma di altre situazioni, ha fatto sì che tutto il mondo va e dice: ah cazzo, una grande folla ha buttato giù la statua di Saddam Hussein. Non c'era nessuna grande folla, c'erano 20, 50, non so quanti, ma poca gente, pagati o dagli americani o dal nuovo regime sciita, dice: andate e buttate giù la statua. La gente aveva talmente paura in quei giorni che non andava per le strade. Ma io costruisco l'immagine in modo tale che questo è ovvio che può essere manipolata l'immagine, ma diciamo, nell'approccio spontaneo, istintivo diciamo, dell'essere umano, dello spettatore televisivo, cioè quell'immagine appare una garanzia di verità. Appare, cioè, quell'immagine, cazzo, c'è, cioè, l'immagine, l'ho visto, dice Dio buono, più chiaro, più chiaro così. Questo non vuol dire. Questo vuol dire, no, questo non implica che l'operatore televisivo sia particolarmente credulone. Come dire, c'è un dato oggettivo da questo punto di vista, è che l'immagine, essendo analogica ed essendo, come dire, meno direttamente diciamo, collegata con i processi di simbolizzazione, poi in realtà noi sappiamo che lo è, ma lo è in maniera più mediata che non il linguaggio. Occorre una, come dire, per capire che il linguaggio è una finzione, non ci vuole molto, cazzo. Io arrivo e vi dico: ragazzi, ho visto ieri un elefante con tre teste, e voi dite: mi hai contato una bella palla. Se io vi porto una foto dell'altro con tre teste, mi dite lo stesso: una bella palla, perché c'è Photoshop, certo, ma se me lo potrà dire anche ieri, perché c'era comunque il montaggio di tipo chimico. Ok, però l'immagine vi fa più effetto. Voi guardate, un sacco dei primi esploratori di King Kong credevano realmente che ci fossero, che ci potessero essere scimmioni alti come le cose, ma ancora oggi la gente terribilmente. Però in questo caso è successa anche una cosa, la stessa identica cosa in radio, quell'evento Io sono dell'UFO. Wells, Quello dell'UFO. Eh sì, noi non lo so l'invasione come si dei. chiama. La gente ci crede, cioè, non Ci c'è ha stata creduto, veramente. certamente ci ha creduto, cioè, ci ha Una creduto perché paura. lì c'era, lì però era, occhio, lì era una, a parte che è stato fatto ai primordi dell'era, diciamo, televisiva, ancora la TV era il 1938, quindi ancora la televisione non si era affermata come mezzo, cioè erano ancora sperimentali allora. La radio rappresentava all'epoca il principale sistema di comunicazione di massa, sia negli USA che in Europa. La RKO era una radio abbastanza affidabile in quei tempi, e Orson Welles era pure bravo, cazzo, perché se andavamo io o te forse a farlo in radio, forse a me e a te ci credevano di meno. No, che Orson Welles aveva un genio, tra l'altro aveva la vostra età o anche meno, aveva 26, 26, 27 anni. E la Ma costruzione, allora non consideravano giovani artisti quelli di 40 anni? no, addirittura Ce erano bambini, la lasciamo ce nemmeno. l'avevate ancora, all'epoca era più. Allora, certo, in quel caso lì che cosa è stato? Lì è stato lui che si è infilato dentro in maniera, ma non era possibile farlo tutti i giorni, cioè fatta la prima volta e dopo non se l'è più fatta, dopodiché può dire, la cosa di Otto West è stata diciamo, capostipite di un genere. Dopodiché tutte le robe venute dopo, dai falsi del mare alle cose, che abbiamo fatto, anch'io ho fatto un sacco di robe di questo tipo dopo, ma fatte dopo, insomma, è chiaro che funzionano bene, però anche allora i miei falsi hanno funzionato. Io mi sono inventato una volta una storia di streghe di Salem, un secolo dopo le streghe di Salem, bla bla bla, e pubblicato un articolo su una rivista di fumetti, è vero, no? Costruendo dei falsi, diciamo delle immagini, però che cosa ho dovuto fare? Delle immagini che supportassero questo strano ritrovamento, te l'avevo detto, ma un pezzo, se no, no, più un'immagine, perché. Allora, siccome in quel periodo studiavo i diari dei primi pionieri americani, quindi sapevo più o meno come scrivere in inglese, ho fatto una breve frase nell'inglese di quell'epoca, quindi con scritto l'articolo TH scriveva Y all'epoca, non c'era il fono V, scriveva Y, non TH. Con la E sopra veniva, quindi l'articolo V è era l'epoca, una Y con una E piccola sopra. Ma questa è la prima cosa. Dopodiché l'ho fatta scrivere da una delle redattrici della rivista con una grafia più o meno, diciamo, seicentesca. Dopodiché per fare una foto su un giornale, quindi scusiamoci. Dopodiché la pipa l'ho scritto su un foglio di carta, su un cartoncino molto granduloso, molto spesso. Poi l'ho tenuto per 7 giorni dentro a bagno nel tè, dopo l'ho estratto, l'ho fatto asciugare in modo che sembrasse vecchio, l'abbiamo fotografato. Poi io ho fatto mi sono inventato una rivista di studi americani che non esiste, North American Quarter, se non caccia. Abbiamo costruito la copertina di questa cosa, abbiamo fatto queste foto, cioè, perché io raccontavo di un ritrovamento fatto nella biblioteca di Salem, con una serie di altre cose. Pubblicato, come dire, l'articolo, la redazione della rivista, che si chiamava Corto Maltese, era nel e ricevette una decina di lettere, tra cui 3 di laureandi che sono stati a laureare in storia, in questa storia qua, che ci chiedevano notizie su questo ritrovamento, quindi la gente si è fidata, cioè è chiaro, perché anche sulla rivista fatto. C'era una storia a fumetti di Manara e di Pratt su quel periodo lì e alcuni articoli di appoggio. Io ho tutti gli articoli di appoggio, i primi erano serissimi, per tutta la storia degli indiani ricostruita. Al quarto numero gli piazzo questa bufala, di cui vediamo come va. È andata benissimo, perché ci cascano tutti, cacciatina, rispetto a quelli che non guardano, mi rendo conto, però vuol dire, dipende dal grado di aspettativa che tu hai, e comunque Wells ce la fece senza immagini, ma perché all'epoca, cioè oggi fare una roba del genere per radio, a parte ormai tutti i tanti Wells, sarebbe molto molto più difficile. Se vuoi, io una volta avevo progettato di farlo a Cattolica, e pensavo di fare un'altra finta invasione, ma addirittura proprio che, diciamo, citasse esplicitamente Orson Welles, usando proprio le radio. E questa era la mia idea. E proprio mentre stavamo discutemmo a lungo se farla o no, alla fine decidemmo di no, perché ci rendemmo conto tutti che non sarebbe stato tanto credibile, cioè che essendoci già le, diciamo, TV, avremmo dovuto costruire delle immagini televisive finte, più che, cioè che una come dire, notizia del genere, noi facciamo una roba pacifica, eccetera, sono sbarcati alla periferia di Cattolica, un UFO, una roba strana, cioè era semplice come corpo, dopo c'era una serie di sviluppi successivi. Però abbiamo capito che senza un appoggio di una televisione, di immagini di una televisione, sarebbe stata dura. Allora, costruire le immagini televisive era molto complicato, per cui non lo facemmo, perché già era cambiata l'epoca. La genialità di Wells fu nel farlo alla fine dell'epoca della radio, quelli erano gli ultimi anni dell'epoca della radio, perché poi in futuro, con il secondo dopoguerra, cominciò la televisione, cominciò negli USA nei primi anni 50 e da noi arrivò nell'Europa più o meno pochi anni dopo. Quindi certo che può funzionare, ma qualsiasi strumento funziona, dipende in relazione a quando... Va bene, comunque sull'immagine, sulla questione continuo, discreto, eccetera, ci torneremo le prossime volte. Allora, io è 3 volte che mi porto dietro questi libri di Flusser e di Benjamin, perché è un accidente, secondo me. Allora, le cose che... le linee sulle quali vorrei sviluppare questa cosa sono fondamentalmente due. Allora, la prima è che quando compare l'immagine tecnicamente riproducibile, allora tutto questo fa, tutti questi fatti che stiamo facendo, questi processi che stiamo più o meno raccontando, ovviamente avvengono quando l'immagine comincia ad essere creata e riprodotta tecnicamente, okay? Con delle tecniche, con l'immagine a mano, tutti questi discorsi ovviamente non valgono, cioè non sono... Allora, e l'immagine tecnicamente riproducibile che cosa porta con sé? Si siccome abbiamo detto prima, abbiamo detto le volte scorse, l'immagine diventa generabile tecnicamente, replicabile a volontà e trasportabile, l'effetto che queste immagini tecnicamente riprodotte hanno hanno per esempio sulle opere d'arte è, come spiegò nel 1936 il signor Benjamin nell'ambito di un libertino che è continuamente citato, però forse poco letto, criticava l'opera d'arte nell'epoca della sua difficoltà tecnica, l'opera d'arte secondo Benjamin, proprio perché diventa replicabile, eccetera, eccetera, perde la sua caratteristica di autenticità, originalità, distanza, tutte cose che lui riassunse nella funzione di aura. Aura. Vi siete fortemente pregati quando c'è questo libro di non dire, di non scrivere mai, come molti lo fanno, l'aurea. L'aurea, a parte che senza l'apostrofo indica evidentemente ciò a cui era voi tendiate alla fine della vostra carriera scolastica, con l'apostrofo significa una cosa fatta d'oro, aureo, fatto da, significa aura, l'aura, non l'aurea. L'aura senza accento, ovviamente, senza apostrofo è un nome di donna, ma con l'apostrofo è l'apostrofo aura, col termine aura, ho capito, ma non so cosa fare, siccome me lo trovo scritto in tutti i modi possibili, quando poi mi fate, non è una cosa complicata, ma leggere il libro e si trova l'aura, è la proprio aura. Per aura Benjamin intende appunto quelle caratteristiche di originalità, unicità, irripetibilità e quella sorta di atmosfera che ha intorno a sé l'opera d'arte, diciamo, tanto per capirci, la diciamo Gioconda. Allora, un primo fatto su cui però uno, allora, questa qui è la cosa che si dice di più in genere di questo libro di Benjamin. In realtà dentro il libro di Benjamin ci sono una serie di altre affermazioni interessanti e importanti e che introduco oggi perché poi le cercherò di sviluppare nei codici successivi. Ed è che, allora, la prima di queste osservazioni è che il processo di produzione tecnico, di produzione e di riproduzione tecnico di una immagine nuova di questo tipo, non è così banale o automatico o non è una semplice replica delle modalità della visione umana, ma rappresenta, introduce all'interno del modo di produrre e di vedere le immagini delle caratteristiche e dei punti di vista che possono essere addirittura più fini di quelli dell'occhio umano o comunque diversi da quelli dell'occhio umano. È la prima volta a mia conoscenza che un autore, un filosofo, uno studioso delle immagini, dei mezzi di comunicazione, introduce la nozione, una nozione che si poteva chiamare di inconscio tecnologico. Cioè, la tecnologia porta con sé delle, come dire, modalità di produzione dell'immagine che sfuggono ai processi coscienti della produzione, della riproduzione e dell'interpretazione umana delle immagini, e quindi possono essere qualificate di inconscio tecnologico. Il termine non è né di Franco Vaccari, che lo introdusse in Italia a metà degli anni 70, né mio che lo usa, né mio o di Mario Canali che lo usiamo, diciamo, adesso, ma è già nell'origine di Benjamin. Benjamin in realtà parla di inconscio ottico, non inconscio tecnologico, perché lui parla della fotografia. Allora, vale la pena leggere i due passaggi nei quali, uno nell'opera d'arte, nel realtà, e l'altro in un altro testo chiamato Piccola storia della fotografia, che sono entrambi contenuti in questo libro, in cui Benjamin spiega questa cosa, ed è molto interessante che poi può essere sviluppato in questo modo. Allora, vediamo dall'opera d'arte della difficoltà tecnica, paragrafo secondo. Vi leggo tutto il paragrafo perché è interessante. L'ic et nunc dell'originale costituisce il concetto della sua autenticità. Ic et nunc vuol dire qui e ora, due parole latine, vuol dire qui e ora, ic et nunc. Il qui e ora, l'ic et nunc, cioè la caratteristica visibile, palpabile, dell'originale, costituisce il concetto della sua autenticità. Analisi di genere chimico della patina di un bronzo possono essere necessarie per la constatazione della sua autenticità. Corrispondentemente, la dimostrazione del fatto che un certo codice medievale proviene da un archivio del secolo XV può essere necessaria per stabilirne l'autenticità. L'intero ambito dell'autenticità si sottrae alla riproducibilità tecnica e naturalmente non di quella tecnica soltanto. Chiaro, l'intero ambito dell'autenticità, cioè i caratteri dell'autenticità non sono replicabili tecnicamente. Se io ho la mia miniatura del codice, come dire, medievale, posso riprodurre il suo aspetto con una foto, ma non posso riprodurre tutte le caratteristiche di spessore della carta, della carta, no, della pergamena, eccetera, eccetera, cioè tutte le caratteristiche chimiche, per esempio, che fanno di quel disegno un'opera irripetibile, quindi autentica e originale. Ma mentre l'autentico mantiene la sua piena autorità di fronte alla riproduzione manuale, che di regola viene da essa bollata come un falso, ciò non accade nel caso della riproduzione tecnica. Essa può, la riproduzione tecnica, per esempio mediante la fotografia, rilevare aspetti dell'originale che sono accessibili soltanto all'obiettivo, che è spostabile e in grado di scegliere a piacimento il suo punto di vista, ma non all'occhio umano. Oppure, con l'aiuto di certi procedimenti, come l'ingrandimento o la ripresa al rallentatore, può cogliere immagini che si sottraggono interamente all'occhio. Tutti voi avrete presente, per esempio, i primi studi, diciamo, alcuni degli studi fotografici sul movimento, per esempio, degli animali precedenti all'invenzione del cinema, per esempio quelli di Maibling, medico scozzese della metà dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, il quale con una serie di trucchi, di tecniche molto raffinate, anche molto ingegnose, riuscì a prendere delle foto estremamente ravvicinate, per esempio, di un cavallo che diciamo galoppa, e attraverso queste foto riuscì a dimostrare una cosa di cui nessuno prima era riuscito a dimostrare realmente, diciamo, l'esistenza, cioè l'esistenza durante il galoppo di un cavallo, di un istante in cui il cavallo ha tutte e quattro le zampe sollevate da terra. Chiunque avesse trovato il cavallo supponeva, ma ci deve essere un momento in cui, però, la rapidità del movimento del cavallo, quando va al galoppo più veloce, quando va al trotto, eccetera, e il fenomeno della persistenza dell'immagine sulla retina, che dura circa un decimo di secondo, escludeva che l'occhio umano potesse davvero raggiungere. Questo, per esempio, è un caso molto semplice di inconscio ottico, cioè c'è qualche cosa che la fotografia, in certe condizioni e circostanze, riesce a cogliere che l'occhio umano invece non coglie. Rappresenta però qualche cosa di cui l'occhio umano ha in qualche maniera registrato, ma non ne è consapevole, no? Diciamo, non c'è una coscienza ottica del fatto che una coscienza ottica umana del fatto che il cavallo diciamo, sollevi tutti e quattro le zampe da terra, mentre questa diventa cosciente nel momento in cui io guardo una foto che mi dice: ah, questa però, eccola qua, ecco il momento in cui solleva tutte e quattro le zampe da terra. Non è questo il passo in cui Benjamin parla di inconscio ottico, ne parla nell'articolo della fotografia, però riprenderà questa cosa. E questo è il primo punto. Essa, cioè la riproduzione tecnica dell'immagine, può inoltre introdurre la riproduzione dell'originale in situazioni che all'originale stesso non sono accessibili. In particolare, gli permette di andare incontro al fruitore nella forma della fotografia oppure del disco. La cattedrale abbandona la sua ubicazione per essere accolta nello studio di un amatore d'arte. Il coro che è stato eseguito in un auditorio oppure all'aria aperta può venire ascoltato da una camera. Questo è, immagino, invece la caratteristica di cui vi ho già parlato della trasportabilità dell'opera che non si può avere con la cosa. Un concetto analogo, Benjamin dice più o meno negli stessi anni, non ricordo l'anno preciso, in questo altro scritto che si chiama Piccola storia della fotografia, e qui è più preciso, e qui parla di inconscio ottico, quello che io chiamo inconscio ottico. Il testo in questo senso è il seguente. La natura che parla, no, leggiamo prima. Nonostante l'abilità del fotografo, nonostante il calcolo nell'atteggiamento del suo modello, l'osservatore sente il bisogno irresistibile di cercare nell'immagine quella scintilla magari minima di caso, di hic et nunc, cioè di carattere immediato, con cui la realtà ha folgorato il carattere dell'immagine, il bisogno di cercare il luogo invisibile in cui, nell'essere in certo modo di quell'attimo lontano, si annida ancora oggi il futuro. Siamo ancora in grado di scoprirlo. Ma questo è il punto importante adesso. La natura che parla alla macchina fotografica è infatti una natura diversa da quella che parla all'occhio. Diversa specialmente per questo, che al posto di uno spazio elaborato consapevolmente dall'uomo, c'è uno spazio elaborato inconsciamente. È chiaro? Lo rileggere. Ah, è bellissimo, io quando l'ho incontrato, l'hanno letto 3 volte senza accorgermi. L'anno scorso mi sono venuto in nuovo e ho detto, cazzo, però, l'aveva già detto, l'aveva già. Ma inconsciamente della macchina. Certo. Dalla accoppiata macchina uomo, più che, lui questo non lo dice, ma la natura che parla alla macchina fotografica è infatti una natura diversa, diversa da quella che parla all'occhio, diversa specialmente per questo, che al posto di uno spazio elaborato consapevolmente dall'uomo, c'è uno spazio elaborato inconsciamente. Se è del tutto usuale che un uomo si renda conto, per esempio, dell'andatura della gente, sia pure all'ingrosso, egli di certo non sa nulla del loro contegno nel frammento di secondo in cui si allunga il passo. E qui c'è l'esempio che fa bene, mi è simile a quello che vi ho fatto prima io sul salame immagine. Ci sono dei momenti che l'occhio non riesce a registrare, cioè che l'occhio registra inconsapevolmente, ma che la mente non può registrare consapevolmente in quanto tali, che quindi fanno parte di qualche cosa che noi possiamo dire fa parte della conoscenza di sfondo ottica, ma è una conoscenza inconscia, non conscia, non è consapevole, io non ne sono consapevole, ne posso diventare consapevole soltanto quando la macchina fotografica me lo fa vedere. Detto in altri termini, la macchina fotografica, e questo lo sa chiunque di noi abbia, quando ci guardiamo in foto, che magari non siamo tanto fotogenici, ah, come sono venuto male, non vi riconoscete, non ci riconosciamo, non riconosciamo i nostri amici nella foto. Vuol dire che la foto mente? No, vuol dire che la foto isola perché è in grado di lavora su quel 125esimo di secondo, su quel 600esimo di, diciamo, secondo, non è un semidistante, è sempre un intervallo di tempo, ma è così piccolo rispetto alla persistenza dell'immagine sulla retina, che la nostra mente lo ha elaborato dietro, no, insieme con tutte le altre espressioni infinitesimalmente differenti prima e dopo della faccia. Non siamo in grado di isolare quella cosa che la macchina fotografica isola. Dimmi. L'immagine rubava l'anima, Qualche cosa ruba l'immagine, però Angela, sì, qualche cosa appunto, ruba, non c'è certo. dubbio. Ruba un frammento di realtà che fa parte del tuo inconscio, ma non della tua consapevolezza. Anche lo avvicina di più al mondo dei morti che. Per certi versi sì, ma non mica detto che gli aborigeni australiani sono meno scemi di quello che noi pensiamo, perché insomma, loro non hanno questa roba. Allora, però finito di leggervi il pezzo. Allora, rileggo la spiegazione. Se è del tutto usuale che un uomo si renda conto, per esempio, della natura della gente, sia pure all'ingrosso, egli di certo non sa nulla del loro contegno nel frammento di secondo in cui si allunga il passo. La fotografia, con i suoi mezzi ausiliari, con il rallentatore, con gli ingrandimenti, glielo mostra. Se soltanto attraverso la fotografia egli scopre questo inconscio ottico, come attraverso la psicanalisi l'inconscio istintivo. E quindi è lui stesso che fa il parallelo. La macchina fotografica ci mostra l'equivalente di ciò che la psicanalisi ci mostra, cioè la psicanalisi ci porta alla luce motivazioni e caratteristiche non controllate dalla nostra coscienza di gesti che comunque noi e di comportamenti che comunque noi compiamo e guardiamo. La fotografia fa la stessa cosa con l'occhio, cioè ci porta alla luce, rende visibili alcune delle componenti, delle costituenti dell'immagine che fanno parte dell'immagine ma che il nostro occhio sicuramente registra ma di cui non è consapevole. Allora, questo è, adesso io devo chiudere la lezione adesso perché sennò non arrivo in tempo, ma questo, no, le ultime parole, insomma, questo è, come dire, sono alcuni spunti che possono essere interessantemente poi elaborati successivamente, ma che ci mettono in guardia, e pensate che è un testo del 1936, devo dire che la stupidità umana si sconfigge con grande difficoltà, perché nonostante che lui avesse già detto un sacco di gente continua a pensarlo diversamente. Quindi questo vuol dire che dobbiamo guardarci bene dal considerare le immagini tecnicamente prodotte e riprodotte come dei banali procedimenti di imitazione del reale. Imitazione di che cosa? Cioè il reale è un processo di rapporto tra la nostra capacità sensoriale, la nostra capacità di lavorazione, di interpretazione sul sensoriale, il più o meno forte livello di astrazione che noi siamo in grado di costruire su queste immagini, tutto ciò fa parte genericamente di qualcosa chiamato reale, se il reale è un processo e non la presa d'atto, tutto sommato, piuttosto banale e automatica, per non dire idiota, di qualcosa che sta totalmente fuori di noi e che il nostro occhio si limiterebbe in qualche maniera a registrare. Quindi non soltanto ogni teoria della conoscenza come rispecchiamento della realtà è debole, ma addirittura ogni teoria della sensorialità come puro rispecchiamento della realtà è debole. Esistono inconsci anche tecnologici, e la tecnologia, tecnologie di produzione e di riproduzione delle immagini sono in grado di portare alla luce, questo non lo dice Benjamin, ma mi permetterete di aggiungerlo a me, che questo inconscio ottico di cui parla Benjamin, o questo inconscio tecnologico di cui noi potremmo parlare generalizzando anche ad altre tecnologie, è in realtà un inconscio che realizza un reale incontro tra l'uomo e la macchina. Il sistema cognitivo uomo-macchina è un sistema cognitivo in quanto tale, ed è anche un sistema in qualche maniera espressivo, ed è anche un sistema in qualche maniera dotato di caratteristiche che noi associeremmo da chitto alla sola psiche. E allora o dobbiamo non tirare cosa due scelte, o considerare sbagliata e superata la nostra visione della psiche, oppure estendere questa idea di psiche probabilmente anche per un pezzo alla macchina, anche alla nostra creazione, o perlomeno a quella originale interazione non soltanto meccanica, non soltanto materiale, ma anche cognitiva, psichica, comportamentale, che è l'associazione, il sistema, la sintesi più o meno di uomo e di macchina. Quindi il ricorso ottico di Benjamin ci serve.